0 per verificare la posizione della frequenza, non conferma frequenza, non puoi fare. Alpha 1 Mano 4, concentric extensor, 6.85, secondary weapon 5.45. doing great. I've got a six-inch wooden bit at point. Plus 17. Thank you. frequência 128, decimal 45, altera o número 8. 4265, altera 254. Now 126.85, 1-2-2.25, secondary 1-2-5-0-2.